se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. E aggiungo una cosa ancora. I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Abbiamo domandato a chi avesse un animale in casa ed è venuto fuori che il 92% li considera membri della famiglia. Cagnolini o gatti, che molti chiamano bambini, i miei bambini. Il 46% li fa dormire sul letto. Il 26% li fa dormire sul letto sotto le coperte. Il 20% degli interrogati su 2000 persone ha risposto: noi a questo partito daremo il nostro voto. And more, much, much more. I did it my way. E allora io ho voluto fare, perché sono birichino, una domanda birichina, e ho messo una domanda speciale. Ho detto: ma signora, se lei dovesse trovarsi nella drammatica situazione di dover scegliere tra suo marito e il suo cagnolino, che scelta farebbe? E le signore hanno scelto per il 73% il loro cagnolino. Signore, ma esiste uno spettacolo più bello? E non vi facciamo pagare il biglietto di un inizio di settimana così. No, esiste uno spettacolo migliore? Ditemelo. Finiamo di fare gli imbecilli. Ho capito, presidente. Pulcinellismo. Ma che, con chi ce l'ha, presidente De Luca? A me sembra uno spettacolo inenarrabile quello che abbiamo regalato questa mattina. Sto dicendo cose gravi, pesanti. Ringraziando Lorenzo Nespoli, come sempre, che cura la copertina e redazione, signori. Il partito animalista, vai. Non sapevo che ci fossero tanti cretini in Italia così, che fanno dormire sotto le coperte i cagnolini. Tutto è finzione. Ecco, cominciamo ad avvicinarci forse al senso delle cose. Tutto è finzione, caro De Luca. E teatro. Anche. Pure, pure. Punto e basta. Ci avviciniamo, signori, la conduzione 4.0 di Vincenzo De Luca è quasi pronta. Avete capito? Signori, è il 22 maggio e dobbiamo celebrare un trionfo calcistico, anche questo leggendario, un qualcosa che rimarrà certamente nella storia. Signori, il Milan è tornato in Europa. Mario Adinolfi, Che bello, siamo tornati in Europa, signori. L'anno prossimo con l'altra Giurgiu fate i preliminari, contro chi? Io sono contento solo per una cosa, perché così i giocatori a luglio, sotto il caldo di luglio, vanno in Moldova o Moldavia, che dir si voglia, a guadagnarsi il pane per la Champions League. Io sono contento solo per questo. Molto bello. Molto bene. È successo qualcos'altro a livello calcistico ieri? I campioni dell'Italia siamo noi, come Peter Bescapè fa ben sentire dal posto. Alpino, ma Peter Bescapè, ma sei juventino? La sotto leggenda, sotto, ragazzi. La legge, inchinatevi alla leggenda. Questo è qualcosa che nella vostra vita ricorderete, quel 21 maggio, quel giorno c'ero anch'io. E c'ero anch'io nel tuo caso. Vabbè, e gioivo nel mio. Eri a Torino ieri? Non succederà mai più. No, mai più. Ma non succederà mai più. Questa è una cosa che ci deve consolare. Le cose che durano sono le cose che giusto, e questa giusto, cosa va bene, durerà. Allora Marione va bene, la Juventus ha vinto il sesto scudetto consecutivo, d'altronde insomma è l'anno in cui avete fatto anche il triplete, quindi complimenti alla grandissima, perché sono anni che noi la Champions League, cioè scusa l'Europa League, e voi il triplete, il triplete, ma vinciamo a casa, i vostri esorcizzare questa cosa, noi vinciamo a casa. Qua, e facci già un bel pronostico, dai. Vinciamo facile e largo a casa. Registra sta cosa. Vinciamo facile e largo. Guarda, si segna bene, eh? Un 3-0. E rimanda in onda il 4 giugno. Sei in onda il 4 no, giugno. No, il 5 giugno. Vabbè, il 1-3-0. Manda bene quella registrata. Cioè, facile e largo. Facile e largo, ricordatevelo. Facile e largo. Quindi un 3-0, un 3-1, un 4-1. Una roba. Una cosa bella, proprio. Una cosa bella, insomma, insieme a Maria Di Nolfi voglio salutare Angelo Maria Perrino, direttore di affari italiani.it, un altro juventino, un altro gobbo. Eccomi, signori, buongiorno, forza Juve. Ah, mamma mia ragazzi, forza Juve. Ma sapete che Rose, ve la dico questa, Stefano Esposito, senatore del PD, ci ha rivelato venerdì che Agnelli è andato in commissione antimafia, è stato sentito, e Rosi Bindi si è rivolto a lui così, comunque auguri per la Champions League. Agnelli si è toccato i coglioni, si è toccato i coglioni in commissione antimafia, signore. Grande presidente. Questa è la notizia, fosse il direttore del Vernacogliere, e Agnelli va in commissione antimafia e si tocca le palle, questo titolo a caratteri cubitali. Va bene, hai festeggiato, Angelo? Ma con sobrietà, ma certo, come certo, di chi vince troppo, quindi se no dovremmo fare una festa continua. Dunque sì, un sorriso, e osservando che in effetti non solo il sesto, ma ci prenotiamo il settimo, perché sì, dieci, arrivate a 10 possibili outsider. Arrivate a 10, dai, che così è bella, 10, dai, sì, che bello. Il Milan e l'Inter liquefatti significano sì, che ci sì vorrà del tempo. Vabbè, dai, al 10, dai, noi apriamo la legge, sì, apriamo, guarda che lapsus, apriamo la legge elettorale, apriamo il Parlamento. Questa Juve attrazione argentina che mi ricorda la mia Juve di Tivoli. Sì, sapete che ha un mito, Sivori. Allora, Mariona Di Nolfi, ti faccio subito una premessa. Non mi scassare le scatole con la legge elettorale, tutti i tecnicismi. Adesso ne parliamo, si va a votare, si non si va a votare. Non mi dire i tecnicismi del Tedeschellum, perché guarda che... Ti faccio partire in loop i rigori di Manchester. Era contro Buffon. Raccontati da pelle gatti, se. Ogni volta, va bene. Va bene, ok. Allora, la notizia è questa: Berlusconi offre un patto a Renzi. Votiamo con il Tedeschellum, che non interessa nulla di come è fatto, perché è fatto, non frega niente a nessuno. Basta che si voti a settembre. Ma perché, Marione, Berlusconi c'ha la fregola di andare a votare? Ma infatti non c'ha la fregola, secondo me. Tant'è che nel campo renziano, avrei letto i giornali di oggi, c'è molta diffidenza, un buon segmento dei renziani, penso al ministro Del Rio, che è una persona che politicamente è molto accorta, sa che lì c'è una trappola. Credo che francamente questo tavolo sia da saltare. Oh, noi voteremo su un finto tavolo che, secondo lo schema classico di Berlusconi, vi ricordo che Berlusconi ha sempre fatto questo, ha tirato sempre gli avversari dentro la trappola, assicurando che avrebbe fatto accordi, il famoso patto con la crostata, la bicamerale. Sì, sì. Poi all'ultimo momento tutti dicono: è fatta, salta il tavolo. Intanto volevo dire, Mario, non l'ho detto perché dovevamo celebrare, ma ti ricordo che ci sono 14 gradi a Montreal. Da dove ci sta ascoltando Michela, in Quebec. Mamma mia, Michela mia, ma perché sei finita a in Quebec? Che avevi combinato? No, guarda, ci ascolta anche dall'unico ascoltatore dello Zambia. No, Zambia, beh. Lusaka, ci sono 12 gradi, guarda il numero 00260. Ah, sì, spacciatori di diamanti. No! Dai, fa così, spazi il filtro. Da Lusaka, grande abbraccio. Grande abbraccio al nostro ascoltatore da Lusaka. Allora, Angelo, dice Mario Di Rolfi che tutta una finta quella di Berlusconi, non si va a votare, è tutto un patto, così si parla sul... Non so dirti, davvero questa della legge elettorale è un pasticcio infinito. Io avevo la sensazione, per l'enfasi con la quale è stata annunciata in televisione da Berlusconi, sì, che sia quella vera, perché l'uomo è molto attento a distinguere i livelli mediatici quando in genere se lo dice la TV vuol dire che è una panzana clamorosa. Deve blefare, lo fa dire alla Bergamini piuttosto che a qualcun altro. Quando si espone lui è quella giusta, quindi io non sarei troppo d'accordo. Mi pare che questo sia un tavolo positivo. Un po' positivo nel senso perché? Nel senso che non è un blef. Non è un blef. Che ci piaccia o no è un altro discorso, però mi sembra che il dialogo tra Renzi e Berlusconi ora cominci a dare i suoi frutti. Cioè, l'idea è: facciamo un accordo sulla legge elettorale, basta che si voti a settembre. Questo sì, chiede. Perché dall'Europa arriva un messaggio di far presto, perché la Francia si è messa a posto con Macron, la Germania tra un po' vota e sembra che la Merkel sia vincente. Per cui l'asse franco-tedesco sta ripartendo e noi rischiamo di restare l'elemento instabile dell'Europa. Sì, ma voglio dire, ma facciamo cioè la stabilità non è fare le elezioni, perché ogni tre anni le facciamo. Dare un governo a questo paese mentre si teme che si vada verso l'ingovernabilità dei tre poli, quindi Renzi e Berlusconi insieme garantiscono comunque un risultato, quindi una positività. Vabbè, diciamo che torniamo lì, il patto del Nazareno, l'inciuccione, eccetera, le solite robe. Caro Marione, questo ti piace, ma invece... Era carina la storia del partito animalista invece. Ma no, infatti ma anche non ci arrivo, partito animalista, signori. Hai fatto una copertina straordinaria di minchiate. Ma come minchiate? No, io sono soprattutto basito, stavo per dire, non so quanti italiani, non pensavo quanti italiani fossero così cretini di far dormire sotto le coperte. Berlusconi snocciola quei numeri, c'erano numeri reali, che dice veramente il sondaggio, quello è veramente tutto teatro e tutte puttanate. I numeri sono dati a caso. Però ma quelli che fanno dormire i cagnolini sotto le coperte ci sono, sotto le lenzuola. Lascia fare i gatti, magari che sono un po' più puliti. Che le donne al 73% scelgano il cane invece del marito. Sì, vabbè, ma quella è proprio la barzelletta berlusconiana. Ci ho detto anche qui Berlusconi che ha inventato il marketing politico, perché Forza Italia è un'invenzione di marketing, non c'è mai stato un valore politico dentro. Capì che dopo la crisi della DC e del pentapartito c'era un segmento libero e come un lancio di merendine lo ha occupato, cioè, quindi, per 20 anni. Ha capito adesso che bisogna fare il partito degli animali. Adesso le appartenenze non si definiscono più in base ai vecchi partiti, ma in base a fuffi, valori. A fuffi. Adesso questo dei cani e dei gatti e non solo, è uno dei temi. La migliore Marione di Antonio Pennacchi oggi su Repubblica. Allora famo il partito della Bellucci perché gli piace tanto agli italiani. Monica Bellucci. No, agli italiani ci piacciono gli animali. Ho letto Pennacchi. Che dice questa cosa pericolosissima, secondo cui quell'intervista di Pennacchi è molto curiosa. Secondo cui aumentare i diritti delle bestie aumenterebbe i diritti per gli esseri umani. Questa cosa è abbastanza curiosa. che sì, poi devo sempre capire quali sono le bestie che vanno bene e a quale confine ci fermiamo. Perché l'asino, per esempio, l'asino va bene. Ma i sorci di Roma, i cinghiali di Roma, quelli si sa, quelli si sa che quelli tu sa, no? Non li vuoi mettere a convegno, quelli si sa che li vuoi in salmì. Non so se, se i cinghiali. Allora, ma anche il vitello lo voglio a scaloppina, che cosa che si sa. Ma no, allora, qual è il limite, diciamo, di questo partito animalista? La zanzara immagino non sia inclusa, no, non lo potrà so continuare a schiacciare, forse vorranno schiacciare Cruciani, ma la zanzara quella vera no, non lo so. Secondo me questa cosa è proprio totalmente senza senso e dimostra un certo grado di rincoglionimento di Berlusconi. eccolo là, ma guarda che oggi già ci sono su Repubblica tutti i partiti animalisti, cioè i partiti, i movimenti animalisti che dico siamo in ritardo, diciamo, ci hanno fottuto l'idea, è una roba incredibile, una pagina la vignetta di Giannelli, la vignetta di Giannelli me la sono persa, guarda dov'è il Corriere della Sera, e sui gattini ancora una volta dice Berlusconi che possiamo arrivare al 20%, quattro gatti che parlano, esatto. vabbè invece, signori, no, aspetta devo andare al traffico, me lo dici dopo, invece tra un attimo. Ragazzi, la lista Dudu non è nient'altro che un'emanazione della Brambilla. È una maniera per scardinare, per entrare in Parlamento e obbligarci poi in futuro a diventare tutti vegani. Ma Lillo, e non era meglio quando gli era insieme a Greg a fare le cose da ridere? Gliel'ha fatto fare, da andare a scrivere quel libro. Signor Milan, fammi un grazie piacere. Io volessi proprio sapere, il senatore a vita, quando cazzo vanno in pensione? Sono sempre a mezzo palle, sti senatori a vita. Mamma mia, è vero un poco. Ma così ci togliamo dai coglioni. La fiacola è perché Prometheus ha rubato il fuoco a Zeus e l'ha regalato all'umanità. Noi rubiamo dei soldi a voi, maledetti, che li prendete con tangenti e con cose, e li doniamo all'umanità, doniamo la dignità alle persone. Quindi è un dono che facciamo. Questo reddito è una valvola di sfogo per la dignità delle persone. Allora, rimettiamo al centro l'individuo, è solo un tassello per metterci in sintonia col resto dell'Europa, non è che facciamo un miracolo. Vabbè, questo è Beppe Grillo, siamo con Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, adesso tra poco mi dici il tuo invece, caro Angelo, e Mario Adinolfi. Io sono anche sconvolto, ci sono paginate di dibattito sui giornali per dire se è giusto che Beppe Grillo si definisca francescano oppure no. Ma guardate, cioè, Mario... Ma c'è l'intervista al cardinale segretario di cardinali Stato. Cardinali che intervengono, ma non è una cosa, un milionario francescano, voglio dire, mi sembra un po' una piccola contraddizione. Infatti il cardinale segretario di Stato, diciamo, insomma, in qualche modo pacchetta Beppe Grillo per questo un altro poverissimo sarà il segretario di Stato Vaticano. Diciamo, non è noto per i redditi, vabbè, comunque francescano Angelo questa cosa, tra l'altro Grillo c'è anche un emissario che va alla, suo emissario che va alla messa del cardinale, entrerà in seminario a presto Beppe Grillo, prenderà i voti, diventerà prete, insomma, che si ma fa? Io ero a pranzo l'altro giorno con il vescovo di Novara, sì, e c'era Grillo, l'ha chiamato Grillo, teologo straordinario, e ho capito che devono in qualche modo ridimensionare l'apertura fatta dall'Avvenire con l'intervista famosa a Grillo, con le successive dichiarazioni del direttore che non sono piaciute. Sì. Non si può fare una svolta politica attraverso un'intervista. Ma fatemi capire, ma basta un'intervista così dicendo sono vicino e gli italiani ci credono? Cioè, come la questione degli animali, il gatto, cioè tutto. L'Avvenire è il giornale dei vescovi e non puoi muoverti così liberamente. Tarquinio ha fatto un po' un pasticcio. Ho capito, ma io no, dico, ripeto, ma io mi rivolgo agli italiani. Ma bastano due interviste e gli italiani ci... Cioè, Marione, fammi spiegare come funzionano... Grillo sta facendo un lavoro di aggancio al mondo cattolico molto evidente, Grillo non solo fa la marcia, ma appunto dall'intervista ad Avvenire, non ne dà molte di interviste, e esplicita una strategia. L'intervista poi di Tarquinio al Corriere della Sera lo stesso giorno, cui fa vedere un interessamento, diciamo, una sensibilizzazione verso il mondo cattolico, che serve a far cosa? Serve a consolidare un segmento di cattolici che vanno a messa, che già votano 5 Stelle, in maniera secondo me un po' ardita, se non surreale, sì, perché il rapporto con uno che fa l'Eucaristia con i grilli essiccati durante i suoi spettacoli sembra molto difficile da tollerare per un cattolico. Però, al di là di questo, la strategia è delineata. Qual è la natura politica di Grillo? Di destra o di sinistra? Grillo si vuole trasformare nell'arci italiano, cioè nel grande partito rivoluzionario ma allo stesso tempo istituzionale. E cosa c'è di meglio? Il rapporto con i cattolici. Con per e a te un po', e a te un po' sta qua, e a te un po' sta qua. A me un po' sta qua. Sta qua. Anche qui marketing. Marketing, ma sì, marketing, certo, marketing. Ma è ovvio che ma la politica è marketing, ragazzi, che parliamo? Ma è chiaro che la politica deve, è un prodotto che deve essere acquistato attraverso i voti, quindi che non ci dobbiamo meravigliare se i politici fanno marketing. Quindi anche te, Marione, quindi anche la te. La generazione della politica è diventata marketing, ma la politica dovrebbe riferirsi ai valori. Poi vengono messi in piazza per essere votati, quindi i valori diventano un elemento con cui si dialoga con i cittadini. Quindi, per esempio, che valori ha secondo voi Speranza? No, ve lo devo dire perché voglio, non so se avete la paletta 0-10 per votare, perché qua ci sarebbe da, no c'è da votare. Adesso tu rimproveri me che annoio sulla legge elettorale, adesso dovremmo sapere le dichiarazioni di Speranza. Ma io non ti faccio sentire dichiarazioni, io ti faccio sentire, figurati se faccio sentire una dichiarazione di Speranza. C'è il nostro Dejan Cecnikovic, cioè nostro, no, il mitico di Radio Rock, che è andato a blindare Speranza, che ha cantato locomotiva. Mamma sembrava mia. Fosse un mostro strano. Povero Guccini, ragazzi. Che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ma che vecchia Romagna. Io quando sento Speranza mi sembra di tornare agli anni 70. Ma soprattutto, ma come la canta? Cioè, no, non l'ha mai sentita, non conosce la locomotiva, è ovvio, no? Senti, ma non volete capire. Senti. Stoppo, ma non sta la canzone. Per cui... La domanda. La locomotiva. La forza di una locomotiva. La forza della locomotiva. Però non è stata segnata. Che disastro. Ecco, questa è la locomotiva, giusto per. Non vi volevamo lasciare con l'amaro in bocca, come uno mangia le mandorle, l'ultima amara. No, volevamo. Va bene, Marione. Milan, adesso fai una bella cosa. Sì. Saluta Gigi Buffon, Bonucci, Chiellini, grandi. Rick Steiner e Marchiglia, grandi, che sono sei grandi uomini che hanno vinto sei scudetti. Grandi, e hanno fatto il triplete. Grandi. Un omaggio alla leggenda bianconera. Grande. Che ha illustrato l'Italia nel mondo. L'anno del triplete, fallo. Grande. Anche grande. L'amico tuo in Zambia che gioisce per questi sei uomini, capisci? Sì. Contro Buffon. Grande. No. Ma pesca per te, Juventino. Niente, oggi l'hai chiamata. L'hai chiamata Manchester. Siamo veramente. Fai la cosa importante. La cosa importante, Marione. Vincete come? Siamo come? A Cardiff. A Cardiff, facciamo largo e facile. Capisci? Ricordati questi due accessi: largo e largo facile. E facile. Grazie a Marione Adinolfi e a Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. 1, 2, 3. Adesso. Tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, signori, sono le 7:20 minuti, siamo qui a leggere i giornali, la rassegna stampa di 24 mattino. Siamo pronti a scoprire che cosa ci regalano oggi i quotidiani in edicola. Andiamo a vedere. Anche le proprie lunedì. No! Sono cose che capitano. caro ascoltatore. Ed è lunedì 22 maggio, intanto i titoli, le aperture, l'apertura del Sole 24 Ore, affitti, caccia i rendimenti tra mercato, tasse e sconti, sono i dati del rapporto immobiliare delle entrate, le scelte dei locatori su contratti e cedolare, oggi tutti i dettagli nell'edizione del lunedì del Sole 24 Ore. L'apertura, che sarà anche l'inizio dell'approfondimento della rassegna stampa, su Trump, è per il Corriere della Sera. Trump, cacciate i terroristi, l'appello ai paesi arabi, ora una grande coalizione. Poi l'attacco all'Iran va isolato, dice il presidente americano. Per Repubblica, Trump, l'Islam, fermi i terroristi. Il presidente in Arabia cancella la linea Obama, non sono venuto a dirvi come dovete vivere. Chiede però di isolare l'Iran e un'alleanza mondiale contro l'ISIS. La svolta di Trump sull'Islam è il titolo anche di apertura del Messaggero. Mentre La Stampa ci riporta in Europa con una anticipazione: l'Europa all'Italia, tassate i più ricchi per la prima casa. Le raccomandazioni dovrebbero avvenire oggi da parte dell'Unione Europea, quella di ripristinare la tassa sulla prima casa per i redditi più alti. Il Giornale invece, dopo la svolta di Berlusconi, l'offerta sulla legge elettorale tramite un'intervista al Messaggero di ieri, il titolo del Giornale è «Elezioni più vicine, Berlusconi a Renzi, legge elettorale alla tedesca e voto il 24 settembre». Invece la prima del Fatto Quotidiano, dopo l'indagata Vicari, sottosegretario che lascia anche per un Rolex, ora cacciate anche questi, è il titolo del Fatto. E questi sono Marianna Madia, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, De Vincenti e De Filippo, sono tutti membri del governo tra indagati alcuni. Va bene, queste alcune delle aperture, iniziamo proprio dalla questione di Trump. La attualità internazionale, Donald Trump in Arabia Saudita, oggi a Gerusalemme, ci sarà poi l'incontro con il Papa. Insomma, il viaggio del presidente americano che ha parlato ieri a 50 leader islamici. Non è una lotta di religione, ma una lotta contro gli estremisti, ha detto Trump, ovviamente parlando dell'ISIS. E quindi ha escluso scontri tra le fedi. Un Donald Trump che in qualche modo, racconta pagina 2 del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina, ha offerto al mondo arabo-musulmano amicizia, pace, amore, ma soprattutto un progetto strategico segnato dal pragmatismo. Sarebbe quindi un esercizio inutile e fuorviante confrontare il Trump della campagna elettorale con quello che si è visto ieri a Riyadh, davanti a 50 leader invitati dal padrone di casa, cioè il re dell'Arabia Saudita Salman. Certo, ci sono gli aspetti della sicurezza, l'unione di forze per una guerra all'ISIS, la richiesta di isolare l'Iran. Più duro del previsto, raccontano tutti sull'Iran, mettendosi in scia il re saudita, Teheran continua a essere la centrale del terrore, fornendo armi, protezioni, finanziamento ai terroristi islamici. Per decenni l'Iran ha portato distruzione e morte in Israele, in America. Ora conduce una politica di aggressione e destabilizzazione nella regione. Questo ha detto Trump. E poi gli affari. Non dimenticateli gli affari. 350 miliardi di investimenti diretti nei rapporti politici tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Una massa enorme di risorse che Trump ha tradotto nelle dichiarazioni dell'altro giorno nello slogan Job, Job, Job, cioè lavoro. Lavoro, più lavoro per gli americani. Signori, 350 miliardi di affari tra Stati Uniti e Arabia Saudita. La risposta dell'Iran sui giornali italiani la potete leggere nell'intervista che Viviana Mazza, il dialogo, fa con la vicepresidente della Repubblica Islamica Iraniana, Masumeh Ebtekar, che era... Masumeh Ebtekar era all'epoca della rivoluzione comunista, all'epoca della presa di ostaggio all'ambasciata americana di 52 americani, era la portavoce degli studenti rivoluzionari. Oggi appunto è la vicepresidente. La prudente attesa di Teheran capirà l'importanza del dialogo. Così la vicepresidente Masumeh Ebtekar al Corriere della Sera, ricevendo Viviana Mazza nell'ufficio in un palazzo a nord di Teheran da cui si domina l'intera città, dice: sta prendendo familiarità con le questioni, Trump si sta facendo consigliare. Io spero che gradualmente capisca quanto è importante l'accordo sul nucleare per mantenere la pace e la sicurezza. E quindi capirà l'importanza del dialogo. Questo è il messaggio che arriva a Trump dopo le parole dure da parte di Teheran. Visto che si è parlato e si è accennato all'ISIS a livello mondiale, in Italia si discute, dopo l'arresto a Milano di Hosni Ismail Tommaso Ben Youssef, 20 anni, dopo aver scoperto, colui che ha accoltellato due soldati durante un controllo di polizia alla stazione centrale di Milano, dopo che si è scoperto che sul suo profilo Facebook c'erano alcuni video inneggianti all'ISIS, ecco allora che si vuole indagare per cercare di approfondire. La versione sua: i video ISIS erano lì per curiosità. I coltelli li ho rubati poco prima in un supermercato, ma per difendermi. In stazione c'erano persone che volevano farmi male, quelli più grandi mi picchiavano, ero stato già aggredito in piazzale Magiacchini. Questo ha messo a verbale con l'aiuto del suo avvocato, che ha chiesto anche al giudice una perizia psichiatrica. Infatti si difende così: ero drogato, avevo pippato. Quindi cocaina, ero drogato, questo è il motivo per cui ho reagito, non ricordo granché. Questa è la versione di questo ragazzo che è stato arrestato. Tra l'altro, proprio in questo momento, in questi giorni, visto che le stazioni spesso, soprattutto di sera e di notte, sono centrali del degrado come minimo, oggi il Corriere della Sera con Paolo Conti fa un reportage sulla stazione Termini a Roma. Intorno alla stazione, dopo il tramonto, spaccio, degrado, tra vite smarrite, violenze, spacciatori. Da una parte la nuova cittadella del mercato, hotel locali, dall'altra l'abbandono. È un viaggio di Paolo Conti che trovate sul Corriere della Sera, pagina 19, tra via Giolitti, via Marsala, piazza del Cinquecento, uno dei confini, insomma, della cosiddetta cittadella Termini, che di sera, e c'è anche una testimonianza fotografica, si trasforma in una zona di degrado, ma anche qui anche qualcosa di peggio. Voglio invece fare un plauso a questa classe. Parliamo di una cosa positiva, una cosa diversa, una classe di Prato. Per carità, non è la prima volta che alcuni professori si lanciano in queste iniziative con gli studenti, ma è ben raccontata da Claudia Voltattorni a pagina 26 del Corriere della Sera. La classe che rinuncia ai social. Vabbè, è il classico esperimento di mettere per sette giorni gli studenti, una settimana di più non ce la fanno, senza il cellulare, ma d'altronde non ce la faremo neanche noi, non è che solo gli studenti. Il test degli studenti, cellulari consegnate il prof per sette giorni. L'iniziativa del professor Marcello Contento all'uscita di scuola, racconta il Corriere della Sera, quell'inastinenza si notano subito, in mano hanno libri, zaini, quaderni. Tutti gli altri invece sono chinati sullo smartphone, già immersi in mondi virtuali. E gli studenti, quelli in astinenza, ma quelli che poi stanno meglio, almeno così a loro detta, dicono: non mi ero mai accorta, sono tutti così, testa bassa sul cellulare. Addirittura alcuni studenti che ammettono: il giorno in cui ho consegnato il cellulare per iniziare questo esperimento ero impanicata, l'idea di stare senza per una settimana mi faceva morire. Qualcuno ammette: appena ho consegnato il cellulare sono scoppiata a piangere, disperata. I primi due giorni il tempo non passava mai, poi ho iniziato a parlare mezz'ora con un'amica ed è stato bello. O avevo più tempo per fare altre cose, per studiare, per fare sport, per vivere, insomma, dico io in una parola. Nessuno credeva di partire sul serio, ora a sfida quasi finita tutti sorridono, qualcuno ammette: non pensavamo di essere così dipendenti dalla tecnologia. Il progetto si chiama Social Zero, vietati Facebook, Instagram, WhatsApp, Ask, Web. Per chi proprio non ce la fa, cellulare solo per le telefonate. Comunque, è un esperimento raccontato dal Corriere della Sera in questa scuola di Prato. Il test degli studenti pare stia funzionando bene. Va bene, siamo all'articolo, o meglio gli articoli, o meglio i titoli, tutto quello che volete che mi fanno più incazzare della giornata. Sì, ve lo dico. A cominciare dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eccolo qui, faccio un gesto che ogni tanto faccio. Titolo di apertura è Legend. Bravi Juve, bravi. Bravi, bravi. Avete vinto 6 scudetti consecutivi. Complimenti. La cosa non mi rende per nulla nervoso. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Juve, il cugino cleptomane di Alessandro Milan. Vabbè, ebbene sì, ho strappato la Gazzetta dello Sport in diretta, ma in un momento di stizza, non nei confronti della Gazzetta dello Sport, ci mancherebbe. Tra l'altro in diretta anche video, ricordiamo che da qualche giorno siamo anche in video sulla pagina Facebook di Radio 24, nonché sul sito di Radio 24, radio24.it, e potete vedere, non so se esiste anche una moviola per vedere se era rigore o no questo mio strappo della Gazzetta dello Sport, se era contro la Juve. Non era rigore, se era questo è ovvio, non vi faccio vedere neanche la moviola. Comunque complimenti, insomma, è l'anno del triplete ed è un anno da celebrare giustamente da parte dei tifosi della Juve, perché il triplete è un qualcosa che si fa e si entra nella storia. Allora, torniamo alle cose serie. La rassegna stampa racconta ancora intanto di questa anticipazione che trovate sulla Stampa e anche sul giornale. La Stampa la mette come notizia di prima pagina e apertura. Attenzione italiani, perché impatta sulla tassa della prima casa, quella abolita, perché l'Europa chiede, o meglio chiederà oggi, con le raccomandazioni specifiche per paese che verranno diffuse alle 11.30 di questa mattina, l'Europa chiederà la reintroduzione della tassa sulla prima casa per i redditi più alti. Sono raccomandazioni, quindi non è che uno è obbligato. Però queste raccomandazioni, racconta Marco Bresolin, prevederanno questo per l'Italia. L'Italia deve reintrodurre la tassa sulla prima casa per i proprietari ad alto reddito. Ce lo chiederà l'Europa oggi nel pacchetto di raccomandazioni specifiche per paese. Al primo punto della lista, Bruxelles dirà all'Italia che la manovra per il prossimo anno dovrà portare a uno sforzo di bilancio robusto, senza però entrare nel merito delle cifre. La trattativa sarà rimandata all'autunno, ma nel frattempo la Commissione indicherà già nel dettaglio alcune misure concrete da prendere. Tra queste, la reintroduzione dell'IMU sulla prima casa, ma solo per le famiglie sopra un certo reddito, la riforma del catasto, e qui c'è veramente da ridere per un quarto d'ora, visto da quanti anni se ne parla, l'ampliamento dell'obbligo di fatturazione di pagamento elettronici. Più in generale, Bruxelles chiederà all'Italia di spostare l'imposizione fiscale dai fattori di produzione, per esempio le imposte sul lavoro, ai fattori che hanno meno impatto sulla crescita, come la tassa sulla prima casa per i redditi alti. C'è un dossier di Paolo Baroni che riepiloga tutti gli anni di balletti sulla prima casa, e c'è anche, con Francesca Schianchi a pagina 3, la risposta che Renzi ha già pronta da segretario del PD: sulle imposte decidiamo da soli. E sempre fa un po' specie vedere i giornali che raccontano che la risposta già pronta non ce l'ha Gentiloni, che è il presidente del Consiglio, ma ce l'ha Padoan, che è il ministro dell'economia, ma Renzi, come se fosse lui il premier. Non ancora, a meno non mi risulta. Comunque, pagina 3 della Stampa: Matteo Renzi non ha cambiato idea. No all'imposta sulla prima casa. Lo ha ripetuto anche ieri in privato, in attesa di conoscere oggi il testo ufficiale delle raccomandazioni della Commissione europea. E sarà questa la posizione già anticipata dal portavoce di Renzi, Michele Anzaldi, che dice: L'edilizia è un volano dell'economia, il mattone è una forma di risparmio più amata dagli italiani, quasi una religione. L'Europa può chiedere risorse, ma non ci può certo dire dove andare a prenderle. Questa è la posizione che ve l'anticipo già sarà di Renzi, questo almeno raccontano i giornali. In tutto questo si è rianimato il dibattito elettorale sulla questione delle votazioni. Perché Berlusconi ha fatto un'intervista al Messaggero e ha lanciato un'idea: facciamo una legge elettorale che, per carità, non voglio entrare nei dettagli, tanto sapete che non leggo più una riga di legge elettorale, questo come ha dichiarato anche Michele Serra, insomma, la scorsa settimana. Fatela, fatene una. Comunque, se siete curiosi delle cose che virano anche un po' al ridicolo, l'ultima proposta si chiama Tedeschellum, il Tedeschellum, che supererebbe il Rosatellum, che non è il Mattarellum, neanche il Kangurum, neanche il Fianum, che sono tutte cose non partorite dalla mia mente bacata, ma tutte cose lette sui giornali, e ne ho lette, ne dico solo alcune, ma ce ne sono anche tante altre. Comunque l'ultima è il Tedeschellum, la proposta, un misto di proporzionale, un sistema proporzionale che Berlusconi propone al Partito Democratico. In cambio però Berlusconi vuole la certezza di votare a settembre, e dice anche una data, il 24 settembre. Quindi il giornale ovviamente segue un po' il mantra berlusconiano, titola in prima pagina «Elezioni più vicine». Questa almeno è la proposta, la svolta del Cavaliere. Secondo Giovanna Casadio su Repubblica, legge elettorale poi voto, via il dialogo tra PD e Berlusconi, ma i renziani già si dividono, con Del Rio che dice: «Matteo, ci pensi bene a questa offerta berlusconiana sul Tedeschellum, il giorno giura, si tratta». Ma insomma, bisogna capire se è tutte schermaglie oppure no, a giudicare da quello che racconta il giornale. Alcuni dicono di sì, altri no. In tutto questo però c'è una cosa concreta: il lancio del Partito Animalista. Avevamo detto che ci sarebbe stato e c'è stato Berlusconi, un Berlusconi spettacolare nella sua, secondo me, anche un po' ironia, ma in realtà, per carità, non voglio dirlo perché sennò sembra ironizzare su una cosa che Berlusconi invece racconta in maniera molto seria, anche quando dice evidentemente che da sondaggi ha fatto una domanda birichina e dice che le donne, 4 donne, 70% delle donne intervistate, messe proprio alle strette come estrema razio, preferiscono anche a livello sessuale il proprio cane rispetto al proprio marito. Questo, giuro, l'ha detto Berlusconi. Quindi se l'ha detto Berlusconi deve essere sicuramente vero. Ha snocciolato dei dati: il 25% degli italiani fa dormire il cagnolino addirittura sotto le lenzuola. Non pensavo che ci fossero così tanti cretini in Italia, ma evidentemente è così. Il 40% fa dormire gli animali sul letto, sopra le coperte. Questo succede anche a me, quindi il gatto ogni tanto sale sul letto senza alcun problema. Comunque, la scissione animalista, il nuovo partito spacca a destra come a sinistra. Questo è il titolo di Repubblica. Si racconta con tanto di interviste Marina Ripa di Peana, che dice: io sì, io lo voterei il partito animalista, mentre Antonio Pennacchi, scrittore come al solito è straordinario, sempre intervistato da Repubblica, dice: ma figurarsi, con tutti i problemi che ci sono, la sinistra pensasse agli operai, alle periferie, alle classi deboli, alle gente in difficoltà. Ma a che serve un partito animalista? Allora facciamo pure il partito della Bellucci, perché è bella e piace agli italiani, Monica Bellucci. Ma lei è animalista? Chiede Repubblica Pennacchi. Guardi, io non sono nemmeno vegetariano. Il mio piatto preferito sono le salsicce con fagioli in umido. Però dico che se c'è scintilla divina in me e in lei, non può non esserci anche negli animali. Ma non è una questione di anteporre i diritti degli animali a quelli degli uomini. Bisogna cominciare a valutare la possibilità di mettere sullo stesso piano i diritti degli animali, per affrettare il nostro processo di riconoscimento dei diritti degli uomini. Così Antonio Pennacchi. Il tema, dice, comunque è molto più serio di quel che potrebbe sembrare. Va bene, se è molto serio è il momento di Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come si sta fuori dall'Europa? Buongiorno, buongiorno, ma guarda, devo dire che stiamo bene. Siamo bene. Tranquilli, perché sì, voi invece che andrete Noi siamo in Europa a giocare in Moldova a luglio e siamo molto felici. Sì, qualche oratorio periferico, bene. Vi seguiremo con affetto, anzi guarda, ti faccio gli auguri già adesso. Grazie. Per i vostri impegni. E stendiamoli anche per la Juve a Cardiff. Di Europa League, beh, quelli sempre sono, diciamo così, di default, come si usa dire adesso. Bene. Va bene, è lunedì. E quindi? E quindi l'endecasillabo con il tuo permesso. Prego. Ma anche senza. Se vuoi sapere siccome scende o sale l'IRPEF di Trump o quella di Putin, t'apparecchiamo oggi sul giornale un tabellone del fisco oltre confin. E poi che tua domanda sarà sazia, vola lettore a quella legge nuova che garanzia gli autonomi dà in grazia, ma che ora tocca mettere alla prova. Perciò noi ti illustriamo come si deve chieder mercede o la maternità in grafica da leggere si lieve che ciascheduno la comprenderà. Se poi stai già pensando alla vacanza o debosciato dal parlar forbito, prendi l'esperto e ne saprai abbastanza per prenotare, ma seren, da un sito. Potrai capire a passi ben distesi di affitti, di pensioni e di lavoro ed anche di atenei, ma non gli inglesi, che quelli fanno la Brexit, è un male loro. Ogni giornata può essere nera o bianca, ma ieri fu di un bianco nero tossico. Perciò riposo la mia voce stanca e mestamente passo e chiudo. Traffico! Alessandro Milan, il Real Madrid dell'informazione. Ma chi lo sa, le 7:49 minuti. Allora, per la politica ci sono anche da registrare alcuni articoli che prendono posizione dopo che Beppe Grillo nella marcia d'Assisi ha detto: siamo noi i nuovi francescani. È il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin che in un'intervista al Corriere della Sera, in un'intervista al Messaggero, respinge al mittente questo paragone. Intervistato da Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, dice il cardinal Parolin: mamma mia, qualcuno che si possa identificare con il messaggio di San Francesco? San Francesco si identificava con Cristo, lui sì che è stato la vera immagine di Cristo, tanto che ha meritato di ricevere nelle sue membra le stigmate e le piaghe. Direi di no. Questa è la mia fedele, umile considerazione. Non vedo alcun partito politico che possa identificarsi in questo. Forse mai nessuno potrà dire mi identifico con San Francesco. È un modello talmente alto, non irraggiungibile, ma talmente alto che sfugge sempre a qualsiasi identificazione. Ma sono contento se partiti o persone dentro i partiti hanno questa attenzione verso la povertà. Questo è positivo. Così il cardinal Parolin. Certo, c'è da dire che il dibattito che c'è sui giornali di paginate se sia legittimo o no che Beppe Grillo si paragoni a San Francesco, o meglio che dica siamo noi nuovi francescani, fa capire qual è il livello del dibattito politico italiano in questo momento. In tutto anche la Lega fa registrare il momento della segreteria del partito che elegge di fatto, consacra dopo le vittorie alle primarie Salvini come confermato segretario, e c'è il tira e molla. Veramente questo bersaniano, proprio le dichiarazioni sono simili. Questa volta è Umberto Bossi che sembra il Bersani del Partito Democratico, Umberto Bossi nella Lega. Bossi se ne va, no, Bossi resta. Ora dichiara: questa è la mia casa, mi dovranno cacciare. Proprio esattamente le frasi di Bersani. Intervistato da Repubblica, Umberto Bossi dice: questa è casa mia, dunque resto, ma non mi riconosco più in Salvini. Puntare sul sud è un errore, io non vado via, ho costruito questa casa, io sono per la Lega, non per Salvini, i segretari vanno e vengono. Quindi un Umberto Bossi che si prepara a battagliare, ma dall'interno. L'intervista a Bossi c'è anche sul Messaggero: Salvini non può lasciare Silvio, al sud sono furbi, non lo votano, è un errore andare al sud. Però Bossi rimane. Vi segnalo per l'economia un'interessante intervista al ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Viene intervistato dal Corriere della Sera, parla di Alitalia e fa una proposta al ministro Del Rio. Dice questo, è il titolo, azioni Alitalia ai dipendenti. E poi sul caso Dieselgate difenderemo il paese. La proposta di Del Rio è questa, la decisione premette spetterà ai futuri proprietari. Ma sarebbe una buona idea se la nuova Alitalia distribuisse una parte delle azioni ai suoi lavoratori. Questo aiuterebbe nel senso di fiducia che è mancato negli ultimi anni, come dimostra anche la valanga di no al referendum sul piano di ristrutturazione. Ovviamente questo non basterebbe a rilanciare la compagnia, lo se ne rende conto Del Rio, che dice la premessa è un'altra, trovare un investitore serio disposto a metterci i soldi che servono. In questa intervista a Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, pagina 11, Del Rio parla anche alla fine del caso Vicari, sottosegretario che si è dimesso dopo un Rolex che ha ottenuto, dice: a me un Rolex non l'hanno mai offerto, sanno che non ci devono provare nemmeno. Così Del Rio parla di questa vicenda e la chiude, se volete, definitivamente. Va bene, dai, siamo in conclusione, anche in diretta ora sulla mia pagina Facebook, oltre che in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta su radio24.it, in diretta stellare, planetaria, siamo anche in video, ormai la radio si vede, questa è la grande novità. Vi devo segnalare che ha parlato da pentito il guru e fondatore di Twitter, Evan Williams, che in un'intervista al New York Times ha ammesso: credevo che internet migliorasse il mondo, ma mi sbagliavo. Ha chiesto anche scusa per l'elezione di Trump, sapete che c'è tutta la polemica sull'uso dei social e da parte anche di coloro che hanno fatto la campagna elettorale pro Donald Trump, i social accusati in qualche modo di aver fatto eco alle cosiddette fake news, alle bufale, eccetera. Comunque la frase più interessante è che Evan Williams dice: abbiamo scoperto in realtà che su internet, sui social, vince chi urla di più. Ma va? Ecco, lo dico anche urlando, cioè è arrivato a capirlo che vincono gli urlatori su Twitter, non quelli che hanno delle notizie, quelli che hanno la verità, quelli che urlano di più, i bastonatori su Twitter. Vabbè, state un po' su Twitter e poi capirete. Va bene, signori, ma l'articolo più interessante, come sempre d'estate, è quello che vince la carta costa, cioè l'articolo più inutile oggi sui giornali. E siamo sul Fatto Quotidiano, dove c'è una mezza pagina dedicata al vero martirio di una nazione, il vero martirio, soprattutto di questi tempi, l'aria condizionata, o meglio, le disfide, le battaglie, le risse per accendi, spegni, alza, bassa, caldo, freddo. Ma chi se ne frega!